Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento anche per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi con l'Adico andiamo a toccare un altro argomento che fa, come dire, capire qual è la situazione reale del nostro territorio. Parliamo di spazi sfitti, locali chiusi e serrande abbassate. È una cosa che ormai salta all'occhio. Io ricordo qualche anno fa che mi domandavo, ma guarda, ha chiuso anche questo, ma guarda, ha chiuso anche quello. Adesso veramente sono più i negozi chiusi che quelli aperti, mi viene da dire. Purtroppo sì, Francesco, se qualche settimana fa abbiamo fatto un'indagine ed abbiamo elaborato i dati riguardanti le case, le prime abitazioni, in particolar modo abbiamo ragionato su quelli che è stata la crisi che il settore immobiliare in questi ultimi 10 anni ha dovuto attraversare, sta attraversando, adesso l'Adico ha voluto elaborare i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Padova. E chiaramente abbiamo voluto concentrarci su quelle che sono le attività commerciali, cioè capannoni, negozi e quant'altro. E certamente i dati emersi sono un po', diciamo, paralleli a quelli immobiliari, in cui veramente in questi ultimi anni c'è stato un vero e proprio abbassamento delle saracinesche. È una cosa molto triste che dà il senso di come sta andando l'economia. Beh, diciamo che nel 2014 sono state acquistate, rispetto al 2005, che è stato l'anno più florido, 212 attività in meno, qua parliamo di Padova. Quindi un dato veramente molto molto ragguardevole se ci concentriamo sul centro storico e quindi sulle saracinesche di negozi. Poi per quanto riguarda il settore anche non residenziale, nel 2014 sono stati venduti 500 uffici in meno rispetto al 2005, quindi abbiamo avuto 212 meno negozi, 500 uffici in meno e una diminuzione calcolata in termini percentuali dell'82,8%, quindi certamente un dato molto molto pesante. Ecco, quali sono le attività commerciali che hanno risentito di più della crisi economica? Ecco, per completare il quadro, Francesco, e poi risponderti, abbiamo analizzato anche il mercato del box e di posti auto, che una volta era un'ottima alternativa, oggi invece ha avuto anche questo una performance disastrosa. Nel 2014 le compravendite sono state 1.726 contro le 5.000 del 2005, quindi abbiamo avuto meno 65% di acquisto di garage e di posti auto. E addirittura i magazzini sono passati da 387 a 172, quindi meno 55%. Poi per quanto riguarda i capannoni, rispetto al 2005 ce ne sono stati da 42, siamo passati a 14, con meno 66,8%. Gli hotel non mi soffermo perché che in questo momento non abbiamo avuto nessun acquisto dal 2006, dove invece quest'anno ne sono stati venduti 14. Un dato che è difficile dire dove è stato meno disastroso rispetto a un dato che complessivamente risulta disastroso nel senso della parola, però certamente una situazione in che deve farci riflettere di come questi centri storici delle nostre città, in questo caso di Padova, ma non che Treviso o Venezia sia certamente in condizioni di salute migliore, stanno veramente attraversando e certamente i centri storici che giorno dopo giorno continuano ad abbassare saracinesche, rendendo le nostre piazze sempre più deserte e anche meno appetibili ai consumatori rispetto a quella che è una campagna di centri commerciali che invece stanno dirottando grandi flussi di traffico e di interesse delle famiglie. Ecco, quello che dici tu è vero, però sto notando, e lo noto personalmente, soprattutto in alcuni centri commerciali, che anche lì ci sono dei settori chiusi, cioè i centri commerciali hanno gli spazi che ovviamente affittano per vari negozi e anche lì ho visto che ci sono delle defezioni. Sicuramente, anche i centri commerciali hanno le loro grosse difficoltà, però analizzando quelle che sono state e quella che è un po' la situazione dei centri storici, anche la continua realizzazione di questi centri commerciali non vanno certamente ad incoraggiare le piazze delle nostre città. Quando parliamo di crisi dei negozi e delle attività commerciali, noi comprendiamo tutto, anche quelli all'interno dei centri commerciali, certo. Però avere dati dove negli ultimi 10 anni abbiamo chiusure di meno 82% per quanto riguarda il mercato immobiliare non residenziale, meno 65% per quanto riguarda box auto, meno 66% per quanto riguarda i capannoni. E quindi capiamo che oggi veramente pensare a una ripresa si fa molta molta fatica, anche se bisogna dire che qualche timido cenno c'è stato, però rispetto al 2006-2008, anno in cui la crisi è cominciata, siamo lontani galassie. Galassie, vai. fa un po' impressione questa parola. Vabbè, prendiamo atto e ringraziamo quindi l'Adico che attraverso i dati dell'Agenzia delle Entrate ci ha permesso di avere anche questa visione su questo quadro, in questo caso della città di Padova, ma che, come dicevamo, non si differenzia molto da altre città del Veneto. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico, dove trovate numerose altre notizie interessanti. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.